versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta dagli studi di Milano, 16.31 prima e 20 secondi. Ricorda l'indirizzo versione di Oscar @24.it per proporvi in temi di trasmissione con gli interventi diretti, e vi ricordo il numero di telefono per intervenire oggi 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Vado subito al punto, mi rivolgo in particolare agli ascoltatori del Lazio, ma non solo a loro, però in particolare agli ascoltatori del Lazio, per chiederne l'intervento e darci un'opinione su una delle due storie di cui parliamo oggi, ed è quella a cui dedichiamo la trasmissione. La prima, sentirete tra pochissimo, è semplicemente per tenerla in parallelo e a paragone con la seconda. Invece la seconda, quella su cui incentriamo la trasmissione, è una riflessione su quello che sta avvenendo per le impugnative degli ex consiglieri regionali del Lazio, ben 78 ex consiglieri regionali del Lazio, che hanno fatto ricorso contro la riforma varata sui vitalizi l'anno scorso, e il problema è che adesso il TAR deve cominciare l'esame del loro ricorso. Pensate che questi 78 ex consiglieri regionali del Lazio vogliono naturalmente il reintegro a differenza di quello che dice la riforma, ma lo vogliono anche su vitalizio calcolato non solo sulla loro attribuzione ma anche sulla diadia, quindi compreso quello che spendevano aggiuntivamente rispetto alla loro retribuzione. E il problema è che siccome c'è un'unica forza politica, e io adesso vi presenterò un esponente che ha avuto non la buona ma l'ottima idea di presentare al TAR del Lazio, di costituirsi di fronte al TAR del Lazio con una contromemoria che naturalmente prega i consiglieri membri della sezione del TAR del Lazio di adottare una decisione opposta rispetto a quella dei ricorrenti, io la penso come loro. Gli altri non si sono costituiti perché ovviamente ciascuno ha ex consiglieri delle diverse formazioni politiche, ma questo problema ripropone la resistenza della vecchia classe politica di fronte ai vitalizi che dovrebbero essere abrogati e basta, e non come alla Camera è successo la scorsa settimana con quella specie di griglia, ne abbiamo già parlato, di pene irrate per negare il vitalizio, e con un dispositivo che verrà sicuramente bocciato dalla Corte Costituzionale, quindi i vitalizi resteranno per tutti perché questa è la presa per i fondelli avvenuta in Parlamento. Qui stiamo invece discutendo della Regione Lazio, e mi interessa capire che cosa pensate voi di 78 consiglieri regionali che non solo fanno gli impugnati, ma fanno l'impugnativa pure per avere il vitalizio compreso su quello che spendevano aggiuntivamente rispetto alle loro retribuzioni, cioè appunto sulla diaria. Diteci che cosa pensate, visto che questo è un paese nel quale poi i famosi diritti acquisiti, come si vede, se li volgiamo a vantaggio di chi ha di più, diventano anche questo, e loro dicono ma come, c'era un patto preciso, il vitalizio ci spettava rispetto alle regole che erano vigenti. Allora, questa è la storia rispetto alla quale comparare quest'altra storia, molto rapidamente, che viene da un ascoltatore che ci ha scritto appunto all'indirizzo, sulla quale vi prego però di riflettere per un minuto mentre ve la leggo, che come l'Italia pubblica si comporta verso chi ha meno, mentre dall'altra parte gli ex consiglieri regionali vogliono i vitalizi anche sulle diarie, spese comprese oltre alle retribuzioni. Allora, c'è un ascoltatore che mi prega di tenere l'anonimato perché svolge una funzione particolare, quindi questo che dice rispetto a un pezzo dell'amministrazione pubblica potrebbe metterlo in difficoltà, però io ho verificato la storia che racconta. Vi leggo che cosa racconta. Una storia triste e brutta, veramente brutta da raccontarvi. Abito in un paesino confinante con Fiuggi, città abbastanza nota in passato, più nota storicamente. Ogni domenica con la famiglia vado a messa alla chiesa Regina Pacis, una bella chiesa di Fiuggi. C'è davanti alla chiesa, come davanti ad ogni chiesa, purtroppo, un mendicante. Chi vuole dà l'elemosina. Fin qui, purtroppo, la normalità. Domenica scorsa, nel corso delle attività parrocchiali, c'è stato l'incontro delle famiglie, lo spettacolino di rito dei bambini, il pranzo comunitario, e mi è capitato a fianco padre Vincenzo, il parroco. Chiacchieriamo del più e del meno finché il discorso finisce sul mendicante. Mi racconta il parroco che questo poveraccio ha scoperto di avere finalmente diritto alla pensione sociale di 500 euro, non dall'INPS, erogatore della pensione, ma da chi lo ha preso? Da Equitalia. Perché Equitalia gli comunicava l'imminente arrivo della pensione, ma gli comunicava anche il preventivo pignoramento della quota di legge per i suoi debiti. La comunicazione cioè gli arrivava prima da Equitalia rispetto alla comunicazione del suo diritto maturato a avere la pensione al minimo. ci sta tutto, uno può pensare, visto che ci sono i debiti. Ma il bello arriva adesso, il bello si fa per dire. Una settimana dopo arriva a casa del mendicante l'estattore di Equitalia con l'ufficiale giudiziario. Non trova la casa del mendicante, perché il mendicante non ha casa. Sta in un sottoscala. Un ufficiale giudiziario più due accompagnatori. Quando l'ufficiale giudiziario, seguendo le indicazioni, trova la casa del mendicante, cioè il sottoscala, accede, si fa per dire, e provvede a sequestrare i beni presenti. Ma i beni presenti non sono nient'altro che piccolo mobilio raccolto dal mendicante vicino agli scatoloni dell'immondizia del paese, oggetti buttati dagli altri perché inutilizzabili vicino ai cassoni della spazzatura. L'ufficiale giudiziario inventaria tutto, si scusa, è il suo lavoro e sembra finire tutto qui. Ma ecco che, dopo qualche settimana, dopo l'ufficiale giudiziario torna a casa del mendicante, questa volta con due carabinieri che lo accompagnano. Sembra routine, niente affatto, perché l'ufficiale giudiziario chiede al mendicante: ma dove sono i mobili, cioè la spazzatura raccolta vicino ai bidoni, di cui lui era custode giudiziario in termini formali? E il mendicante, senza neanche rendersi conto di quello che dice, risponde: guarda, gli ho dato fuoco perché mi sono dovuto scaldare per due sere. Risultato? Denuncia penale al mendicante per sottrazione di beni ai creditori. E quindi avremo tutti quanti, anche noi, altre spese: il magistrato, il cancelliere, l'avvocato d'ufficio, le spese d'ufficio in genere, e il poveraccio sarà sicuramente condannato. Ecco, allora, uno Stato che si comporta così, verificando che è maturata la pensione al minimo da un mendicante che non ha abitazione e non ha nulla, e arriva l'ufficiale giudiziario, l'ufficiale giudiziario non è in grado di poter contare su una procedura di fronte al quale segnalare a Equitalia che cosa gli devo sequestrare, posso sequestrargli queste robe, e poi addirittura parte la denuncia penale perché per scaldarsi ha bruciato l'immondizia con cui stava nel sottoscala. Voi capite che da una parte questo è lo Stato per chi non ha niente, e lo paghiamo noi nelle procedure che non contemplano la possibilità di imbattersi in chi non ha più niente. Dall'altra abbiamo gli ex consiglieri regionali del Lazio che vogliono la diaria anche computata nei loro vitalizi. Allora, il partito di cui vi ho parlato nel Lazio, che ha presentato, secondo me meritoriamente, la contromemoria al TAR, è anche questa volta, e guardate che è un caso, perché io non sono un simpatizzante, però sta di fatto che, seguendo queste vicende, è la terza volta in due settimane che è lo stesso partito. Perché qual è? Sono i 5 Stelle della Regione Lazio. E allora, per parlare e illustrarvi che cosa prevede la loro contromemoria al TAR del Lazio, che comincia il 14 maggio a esaminare la faccenda, è con noi il consigliere dei 5 Stelle del Lazio ed ex capogruppo dei 5 Stelle al Consiglio regionale, Gianluca Perilli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a lei. Allora, ci spieghi cosa voi avete scritto alla sentenza del TAR del Lazio e qual è la vostra argomentazione per respingere la pretesa dei 78 ex consiglieri regionali. Glielo spiego subito. È perfettamente già descritto quello che è successo prima. Noi avevamo faticosamente, sin dall'inizio della legislatura, ottenuto che un provvedimento di legge di modifica di un trattamento che si srotola in circa 20 anni di leggi, che fossero introdotti due principi che avvicinano questi consiglieri regionali a tutti i cittadini, cioè di elevare l'età pensionabile dai 50, come era previsto prima del nostro intervento, a 65 anni. Quindi questo venendo a una realtà che esiste per tutti. Ecco, e poi ottenendo sono 66 gli anni quest'anno, e diciamo che la riforma dell'anno scorso, riforma un po' discutibile per me, perché io non credo che il vitalizio possa essere paragonato a una pensione, però questa è la mia idea, quindi non ci dovrebbero essere vitalizi. Però, detto tutto questo, ricordo che, a differenza di quello che ha detto lei e che spiega perché non siete d'accordo, la riforma dell'anno scorso ha elevato dai 50 ai 60 anni l'età per poter accedere al vitalizio, sia pur tagliato nella riforma. Continuo a non capire perché ripeto, noi siamo riusciti ad ottenere 65, come pensi lei, Giannino, cosa veramente sacrilega. Avevamo chiesto un contributo e ottenuto di solidarietà, cosiddetto un prelievo. Prelievo, e faccio un esempio: su 5.000 euro di vitalizio, il prelievo è circa il 13%, sarebbero state 560 euro. Quindi un consigliere, ex consigliere o consigliere regionale che percepisse 5.000 euro, gli chiedevamo, a fronte di questo emolumento, almeno un contributo. Noi abbiamo chiesto soglie più elevate, ma insomma poi siamo riusciti ad ottenere una media, diciamo, del 13% di prelievo. Certo. Questi due principi tanto faticosamente. Oh, ricordiamoci anche, che nel 2014 ai contribuenti laziali i vitalizi agli ex consiglieri sono costati la bellezza di 20 milioni, cioè un terzo del totale delle risorse di tutto il Consiglio regionale del Lazio. Non stiamo ragionando di briciole, per così dire, stiamo parlando di pacchi di milioni di euro. Esatto, parentesi. Su questo poi le dirò che la contromemoria poi può produrre un'entrata per le casse regionali molto molto maggiore. Diciamo, questi due provvedimenti non sono piaciuti e quindi naturalmente sono sembrati un torto insopportabile diciamo ai beneficiari del vitalizio, tanto che hanno proposto questo ricorso impugnando proprio e sollevando una questione di costituzionalità, perché si ritiene diritti quesiti, diritti insomma intoccabili, cosa che assolutamente secondo me non vera, in quanto diciamo le precedenti anche la Corte Costituzionale sui trattamenti previdenziali già acclarate che quando sono basati sul principio di ragionevolezza eccetera, anche inquadrati in un complessivo diciamo così contenimento della spesa pubblica, possono essere effettivamente apportati, e hanno proposto questo ricorso. Naturalmente noi costituendoci, intervenendo, perché noi non abbiamo nessunissima intenzione, vogliamo ottenere di più di quello che è stato fatto in maniera minima, noi secondo noi, rispetto al tema. Nel ricorso abbiamo eccepito a nostra volta una questione che secondo noi è gravissima e anticostituzionale, cioè il fatto che il vitalizio, e questo ancora oggi, è calcolato, è determinato non solo sull'indennità diciamo così, l'indennità di carica, quindi l'attività che svolge il consigliere, ma anche sulla diaria, che sono somme percepite a titolo di rimborso spese. Quindi è assurdo che a contribuire del calcolo faccia, diciamo così, si consideri anche un rimborso per le spese sostenute. Una cosa è l'attività lavorativa, quindi la retribuzione lavorativa, e una cosa invece è quella rispetto alle spese. Ma questo già avviene per il calcolo dei vitalizi, e questo per noi è una questione che allontana, ed è giustissimo l'esempio con cui lei ha aperto. È molto indicativo la trasmissione sul fatto di due storie parallele, no, in un'unica realtà. Mi pare, sono purtroppo. Riterrei questa situazione al stile da Versailles, diciamo ai tempi di Luigi XVI, perché si tratta, io invito chiunque a andarsi a vedere, se ha la pazienza di farlo, tutti i provvedimenti che dal 73 legislativi su un tema di vitalizi fino all'ultima legge del 2014 sono una sequela di miglioramenti, di prebende, di aumento di percentuali. Lei pensi anche che nel 2011 il vitalizio è stato ancorato al massimo storico, cioè il calcolo per, diciamo, della somma su cui effettuare poi l'ammontare del trattamento era ancorato al massimo dell'indennità e fissato al massimo dell'indennità nella storia dei consiglieri. Quindi, oppure anche la reversibilità prevista al 65% per mogli, per conviventi muore uxorio, oppure per figli naturalmente, e aliquote che crescono nel tempo fino all'inverosimile e genera, le faccio un esempio così che tutti possono capire, che mettiamo che un consigliere ha cominciato a prendere all'età di 50 anni il vitalizio e diciamo dovesse mancare all'età di 95 anni, avrebbe percepito 18 volte l'importo versato a titolo di contributi. E è una situazione di una... Vede, quello che a noi, sempre invocando il principio di ragionevolezza, ci spaventa è proprio questa coesione nel difendere un privilegio, come si può vedere, in un paese che non si può più permettere, non se l'è potuto in realtà mai permettere, di buttare i soldi, di relegare a una classe che si autoattribuisce per legge. Questa è la cosa grave, perché coloro i quali sono chiamati, esatto, a diciamo a legiferare sono gli interessati, tant'è vero che quando noi in aula ci alzavamo c'erano 5-6 consiglieri, quelli che erano, che percepivano il vitalizio, e noi chiedevamo: ma come possiamo serenamente discutere con voi quando c'è, diciamoci, un conflitto di interessi di questo genere? Quindi c'è stato un consesso legislativo che continuativamente per anni insomma si è in qualche modo aggiustato, deciso di come aumentare le proprie emolumenti senza avere un controllo, diciamocelo, purtroppo dell'opinione pubblica, che spesso è all'oscuro di quello che avviene in queste chiamiamo le segrete stanze. Allora, per informare meglio i cittadini del Lazio, ma non solo del Lazio, ma comunque innanzitutto quelli del Lazio, ci sono anche ricorrenti, ex consiglieri regionali, che ricorrono contro l'innalzamento dell'età per iniziare a incassare il vitalizio, quella che ha ricordato il consigliere Perilli, perché loro continuano a dire no, noi dobbiamo continuare vita naturale durante ad avere ad avercela da quando abbiamo 50 anni, non si può cambiare. Cioè l'idea di questi ricorrenti è che mentre nel nostro paese abbiamo innalzato dalla sera alla mattina per decreto l'età pensionabile al milione di italiani, mentre abbiamo cambiato il sistema col quale si computa la pensione da retributivo a contributivo per tutti coloro che non avevano 18 anni diversamente a 95, per tutti i giovani che non hanno un lavoro e stentano ad avere la continuità contributiva per avere una pensione poi contributiva che in ogni caso non sarà quella retributiva. Ecco, in questa Italia qua, che riguarda la gente comune a cui gli orizzonti di vita e i diritti sono stati mutati dalle fondamenta, poi ci possiamo dividere, io credo che fosse giusto, però insomma è avvenuto, loro continuano a dire no, per noi non si può toccare niente. Io lo reputo una roba non riesco a spiegarmi, cioè intollerabile non vuol dire niente, però fanno pure ricorso al TAR. Adesso la questione, dopo i 60 secondi di informazione stradale che pongo a Gianluca Perilli, è quella di spiegare a chi è in ascolto che cosa concretamente ci possiamo aspettare dalla sentenza del TAR. La sentenza del TAR darà ragione a loro, non so come potrebbe motivarlo, ma magari sì. Oppure invece, se vincete voi di fronte al TAR, il TAR dà retta a voi, che cosa concretamente succede a questi ex consiglieri regionali? Tra 60 secondi, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, 16:48 primi, stiamo parlando due storie in parallelo, un mendicante a Fiuggi raggiunto prima di sapere che aveva maturato la pensione al minimo da Equitalia che gliela sequestrava, questo ci può stare se aveva debiti, ma poi dall'ufficiale giudiziario che gli sequestra i mobili, lui non ce l'ha, e che scambia per mobili nel reperto giudiziario nominandosi custode giudiziario l'immondizia che lui raccoglie, e poi torna e di fronte al fatto che per scaldarsi l'ha bruciata gli parte la sentenza penale per ragionamento per danneggiamento di beni che sono pignorati a garanzia dei suoi debiti. Questa è l'Italia che riguarda chi non ha niente. Poi c'è l'Italia degli ex consiglieri regionali del Lazio che fanno impugnativa perché loro vogliono continuare ad avere il vitalizio pre-riforma e lo vogliono calcolato anche su quello che spendevano in più oltre all'indennità di carica. Quindi chi più spendeva più aveva vitalizio, perché c'era la diaria dentro, ed è con noi Gianluca Perilli dei 5 Stelle. I 5 Stelle hanno presentato loro unici, lo sottolineo tre volte, unici, una contromemoria al TAR. Sono così di fronte al TAR dicendo no, per queste ragioni noi vi chiediamo di non dare retta ai ricorrenti. Il TAR a questo punto, Gianluca, che cosa può decidere in concreto? Il TAR potrebbe accogliere la questione, appunto, che abbiamo sollevato di costituzionalità, è stato ricordato, del calcolo della diaria ai fini del trattamento del vitalizio, quindi ricordo un importo che è dato sulle spese, una pensione che va calcolata anche su quello che hai speso per viaggi, cioè una cosa più spendevi più ti diamo in pensione. Vabbè, diciamo che era forfettaria, però diciamo c'era un limite, però diciamo dal punto di vista invece concreto potrebbe dichiarare, se questo principio passa, che quindi non erano dovuti, non poteva essere calcolato sulla diaria, quindi rientrerebbero. Ma a quel punto una pronunzia di questo tipo, se non doveva essere calcolato, perché voi avete fatto una discussione sul principio che fosse anche calcolato, ma siccome per anni gli è stata versata da alcuni una cosa, qui volevo arrivare, devono restituire. Lo sa quanto? Circa quasi 200 milioni di euro. Ragazzi, io di questo io resterò in attesa della sentenza del TAR del Lazio, perché voi capite che sarebbe una sentenza bomba, cioè far restituire agli ex consiglieri regionali che vogliono mantenere tutto intatto una parte di quello che hanno invece già incassato, perché era incassato su un titolo improprio le spese nel cui rimborso c'era la diaria, sarebbe una roba per me un piccolo grande segno che finalmente c'è un po' di giustizia sugli ex politici. Io non so cosa scommettere e non chiedo a Gianluca Perilli o ai 5 Stelle che cosa scommettono, loro si sono costituiti e lo chiedono, però dico attenzione a questa sentenza, perché secondo me sarebbe una cosa di fronte alla quale molti troverebbero non voglio dire un sollievo, ma è un principio di giustizia, non è augurare un danno, è semplicemente un riparo al fatto che era del tutto intollerabile che funzionasse così. Sentiamo qualche telefonata. Fabrizio da Parma, prego Fabrizio. Piacere Giannino, ascolto sempre. Sì. Volevo dire che il costo della democrazia, se questa fosse veramente il costo della democrazia, mi viene in mente Alberto Sordi nel Marchese del Grillo. Io so io. E voi, eccetera. Forse se la meritano perché hanno inventato il semaforo intelligente, quello che fa il giallo di 3 secondi, così la loro pensione viene da tutti quelli che vengono fregati al semaforo. Può darsi. Se fai una trasmissione sui semafori senza giallo e il photo red, sarebbe una bella cosa sulle truffe di Stato. No, ma questa la faremo. Sì, questa è un'altra vecchia questione con sentenze contrapposte, per così dire. Però quella è un'altra modalità per tirar su soldi di cassa, ma questa è una modalità per decidere di darseli da soli. Quindi voglio dire, stiamo in diversi ordini di grandezza e gravità, per così dire. Certo, la cifra che potrebbero restituire, richiesta dai 5 Stelle, lo ripeto perché dico che secondo me tutti gli altri partiti dovrebbero avere la capacità e la consapevolezza di dire basta, perché se legiferiamo nei confronti dei cittadini cose durissime, non possiamo più tenere in piedi il baraccone che riguarda invece gli eletti dei partiti. Questo dovrebbe essere il metodo di tutti. Se ce n'è solo uno, io continuerò a segnalare che c'è solo questo, perché svolge una funzione di democrazia, in questo caso non di rappresentanza dei propri voti. Questa è la mia convinzione di fondo. Detto tutto questo, noto che molti degli sms sono improntati a richieste nei confronti degli ex consigli regionali in questione, che non posso neanche pronunciare per quanto sono dure. Io vi invito a riflettere però sul fatto che noi dovremmo protestare, oltre che su questo, innanzitutto per come lo Stato tratta chi non è niente, come in quel caso. Non è solo il mendicante. Un paese che ha riservato gli 80 euro a chi ha redditi bassi, dal lavoro dipendente, ma li ha, e ha dimenticato gli incapienti, e mi dispiace che a farlo sia la sinistra, è un paese a cui non tornano i conti, per così dire, perché è così. Un paese che spende, sono le cifre indicate dalle tavole del governo, 1,8 miliardi, quasi 9 quest'anno, per la decontribuzione dei contratti a tempo determinato, 5 miliardi l'anno successivo, il 2016, 5 miliardi nel 2017, cioè sono 12 miliardi che non basteranno, è lo stesso governo a dirlo, per la decontribuzione al tempo determinato. Ottimo. Quando io e pochi altri, il professor Luca Ricolfi o Michele Tiraboschi, dicemmo che avremmo voluto riservare incentivi così solidi, così pesanti, all'occupazione aggiuntiva e non esclusiva, il governo rise. Vi invito a riflettere, al di là di ogni polemica sui numeri del lavoro, sul fatto che al 31 dicembre 2014 vedete gli occupati che avevamo generalmente in Italia, complessivamente in Italia, poi vedeteli nelle tavole che sono uscite ieri al 31 marzo del 2015, ci sono 111.000 occupati in meno. Noi non abbiamo occupazione aggiuntiva e spendiamo 12 miliardi in 3 anni per non avere occupazione aggiuntiva. È vero, avremo più contratti a tempo determinato senza l'articolo 18, ma fino a questo momento i dati dicono che non avremo occupazione aggiuntiva. Non faccio polemiche, guardo i numeri. Dico che un'Italia che fa così poco per chi ha meno, per quello che abbiamo deciso con la politica in questi anni, e che non capisce ancora che per i politici bisogna a propria volta cambiare radicalmente il sistema, ha bisogno di chi si costituisce di fronte a TAR del Lazio. Quindi grazie a Gianluca Perilli e al suo gruppo che l'hanno fatto, e vedremo che cosa deciderà il TAR del Lazio. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.